Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria alla vigilia. Domani infatti alle 22, come abbiamo ampiamente ricordato, arriveranno i risultati degli stress test sulle principali banche dell'area euro, 5 le italiane coinvolte. Abbiamo commentato ampiamente in queste puntate, in questi giorni, la vicenda più delicata, che è quella del Monte dei Paschi. Ieri anche appunto la proposta arrivata dal Monte dei Paschi alla Banca Centrale Europea. Oggi ci sono di nuovo indiscrezioni di stampa. Faccio notare che c'è una certa attenzione, qualcuno parla di accanimento della stampa britannica sulle banche italiane. Di nuovo oggi è tornato, questa volta è stato il Times di Londra, in cui si sottolinea la necessità di un salvataggio da parte delle autorità europee, del governo, sul sistema bancario italiano. Se le banche non ricevono iniezioni di capitale in tempi rapidi, questo, scrive il Times, potrebbe significare il caos politico in Italia, un crollo della fiducia in Europa e la peggior crisi dell'area euro da sempre. E poi però aggiunge il Times, anche con un'operazione di salvataggio delle banche non c'è garanzia di stabilità nel lungo termine per l'Italia, che dipende da una serie di fattori, tra cui il futuro politico del Premier Matteo Renzi e l'esito del referendum sulla riforma costituzionale. Sarà infatti un rientro dalle vacanze, per chi riuscirà ad andarci, almeno abbastanza intenso da settembre in poi. Detto questo, sul Monte dei Paschi le altre banche dovrebbero essere, forse l'Unicredit avrà una sufficienza un po' risicata, stando alle indiscrezioni, ma insomma, detto questo, del Monte dei Paschi abbiamo ampiamente parlato, e oggi diciamo non è che ci siano grossissime novità, se non di nuovo fonti finanziarie, come anticipavo, un salvataggio che costerebbe, per salvarsi Monte dei Paschi dovrebbe pagare oltre 250 milioni di euro per mettere in piedi il consorzio di garanzia come commissioni, tra il 4 e il 4,5%. Gli analisti finanziari prevedono che Monte dei Paschi possa chiudere il secondo trimestre nuovamente in rosso per 80 milioni. L'AD di Banca IFIS, Giovanni Bossi, che ha detto: noi abbiamo sempre comprato dal Monte dei Paschi portafogli di sofferenza del credito al consumo, e questo continueremo a fare. Quindi crediti non nei confronti, per esempio, di imprese, ma di famosi crediti al consumo, che erano tanto di moda fino al 2008. Dicevo, detto ciò, meno 1,70% Milano, meno 0,50 Parigi, meno 0,20 Francoforte, meno 0,20 anche Londra, meno 0,50 il Dow Jones. Che cosa va male? Non tanto le banche, ma oggi c'è un brusco calo sul titolo Saipem, che perde il 9,46%. Male anche Azimut, meno 8,40%, Fiat Chrysler perde il 6,70%, la Pop Milano meno 4,20%, Unicredit meno 3,50%, FinecoBank meno 3,30%, Unipol meno 2,90%, Ferrari pure, Pop Emilia Romagna meno 2,80%, come Intesa San Paolo e Moncler ed Exore, anche il Banco Popolare meno 2,70%, Generali meno 2,60%, come Mediaset e Tenaris. Di positivo c'è Leonardo Finmeccanica più 1,5%, Monte dei Paschi più 1,40%, Enel più 0,30%. Allora, ecco qua un flash che invece riguarda la Fondazione Monte dei Paschi e dell'agenzia Radio Corriere Sole 24 Ore. La Fondazione Monte dei Paschi non seguirà l'aumento di capitale, è l'addio alla banca, nel senso che sappiamo che gli aumenti di capitale andranno a diluire ulteriormente la partecipazione, il peso delle fondazioni bancarie della banca. Si fa notare come già a suo tempo scelse, e in occasione della cessione dell'ultima tranche scelse di una partecipazione del 2,5% dell'azionariato, però ha dovuto svalutare in bilancio 160 milioni in 2 anni, e a questo punto quello che era l'ex azionista di maggioranza del Monte dei Paschi si è dissanguato. Pensate che il patrimonio di 5 miliardi e 700 milioni nel 2008 si è ridotto a 450 milioni di euro. Allora, questo per quello che riguarda la vicenda Monte dei Paschi. Ci occuperemo invece da un lato di scenario economico estivo, ma soprattutto al rientro dall'estate, quindi la parte Brexit bancaria, le tensioni che potrebbero arrivare. Dall'altro anche invece delle prospettive oggi diffuse dallo Svimez sul nostro mezzogiorno. Dico subito che lo Svimez, che è il principale istituto che studia il sud del paese, ha dato dei dati oggi non solo negativi, anzi ha ricordato come il 2015 sia stato l'anno in cui il sud ha fatto un vero e proprio boom, certo che veniva da anni e anni di estrema depressione, perché il 2015 è l'anno che ha interrotto 7 anni continuativi di calo del PIL nel sud e realizzando una crescita maggiore del centro-nord, più 1%. Quest'anno invece frenerà non solo il PIL italiano, ma il PIL anche del sud, ipotizzando un PIL italiano dello 0,8%, quindi come nel 2015, il sud farà più 0,3% e il nord più 0,9%. Si sono creati comunque nel 2015 94.000 nuovi posti di lavoro al sud, boom soprattutto nell'agricoltura, più 5,5%, e nel turismo, più 8,6%. Resta comunque un dato sull'occupazione nel nostro mezzogiorno che è ancora di 500.000 di occupati inferiore al 2008, per la precisione 482.000, e questo pesa molto sul dato complessivo del paese. Infatti spesso ricordiamo che in alcune aree, tipicamente il nord, si è tornati a un livello quasi pre-crisi sul fronte dell'occupazione. Andando avanti poi ne parleremo. Tra l'altro viene richiesto anche una presenza maggiore dei fondi di SGA al sud e quant'altro. Di questo parleremo, dicevo, e anche invece del rapporto della COP sui consumi, un rapporto che viene sviluppato, arriverà nel dettaglio a settembre, però ci sono già delle anticipazioni, visto che il tema dei consumi è un tema molto ambiguo. L'anno scorso e quest'anno sono ripartiti ma non a sufficienza. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Rapidamente le altre notizie in breve. Allora, dati macroeconomici che arrivano oggi dalla Germania: l'inflazione più 0,3% a luglio, più 0,4% rispetto a un anno prima. C'è un nuovo calo di disoccupati in Germania, a luglio meno 7.000, è migliore anche delle attese degli analisti. A questo punto la disoccupazione in Germania è ferma al livello più basso da sempre, da quando si è riunificata la Germania, e quindi al 6,1%. E poi, nonostante il Dieselgate, devo dire che la Volkswagen ha di nuovo sorpassato la Toyota come primo costruttore al mondo nei primi 6 mesi del 2016. Era da 4 anni che la Toyota invece era al primo posto. Volkswagen ha venduto 5 milioni e 120.000 veicoli, l'1,5 in più rispetto ai primi 6 mesi del 2015, mentre le immatricolazioni Toyota si sono fermate a quota 4 milioni 999.000. Venendo all'Italia, continua l'ottimo andamento delle aste, ottimo per il governo e per lo Stato italiano, meno buono per chi deve comprare BOT e BTP. Anche oggi il Tesoro ha collocato tutti i 6 miliardi e mezzo di euro di BTP a 5-10 anni con tassi ai minimi storici. BTP a 5 anni rende a questo punto lo 0,26% contro lo 0,33% di giugno lordo. Quello decennale è l'1,24% contro l'1,35%, cioè per prestare soldi allo Stato italiano si accetta di avere un rendimento lordo dello 0,26% per 5 anni all'anno e di un rendimento lordo dell'1,24% all'anno per 10 anni. Siamo veramente ai minimi storici, sono rendimenti che a livello netto non coprono praticamente nemmeno dall'inflazione o giù di lì. Andiamo avanti con le notizie. Le retribuzioni misurate dall'Istat vedono nel mese di giugno un aumento dello 0,7% rispetto all'anno prima, un incremento dello 0,9% per i dipendenti del settore privato, dove sono aumentate rispetto all'anno fa dello 0,6% nelle industrie, dell'1,1% nei servizi privati. Invece nulla la variazione per la pubblica amministrazione, perché lì c'è il blocco della contrattazione, è appena ripresa la trattativa, per cui tutto l'incremento salariale è tutto del settore privato. E infatti sono 8.200.000 i dipendenti complessivamente che a giugno attendono ancora un rinnovo del contratto, di cui quasi 3 milioni nel pubblico impiego. E poi il dato oggi di Confindustria: il centro studio di Confindustria rileva un marginale incremento della produzione industriale italiana dello 0,2% in luglio, per cui da questo punto di vista rispetto a giugno, nel secondo trimestre 2016 quindi l'attività è aumentata dello 0,5% sul quarto, dello 0,1% sul primo trimestre, e il terzo trimestre registra una variazione congiunturale acquisita dello 0,1%. Sono, ahimè, incrementi, come li definisce lo stesso comunicato del Centro Studi Confindustria, marginali. E a questo proposito, sul tema di come sta andando l'economia, oggi è intervenuto all'azienda Arena di Tolentino, in provincia di Macerata, il presidente del Consiglio Renzi, il quale ha detto: io non dico che tutto va bene, dico che se ciascuno di noi fa la sua parte le cose possono finalmente andare meglio, e voi come Arena siete un simbolo a livello mondiale. Ha poi ricordato che è fondamentale che si crei lavoro e che si aprano strade per le aziende, per fare investimenti, e a questo proposito ha detto Renzi: il messaggio di oggi è che abbiamo smesso con i rinvii, siamo pieni di aziende, e se noi come un governo rimuoviamo gli ostacoli burocratici saremo in grado di competere a tutti i livelli. L'opera pubblica è un messaggio al paese: si fanno, si smette di rinviare, si sbloccano opere per sbloccare il paese. Ci sarà da sistemare, da chiudere, non riguarda definitivamente ANAS, ma è comunque molto importante il tema dell'alta velocità a Brescia, il nuovo polo di Fiumicino per l'aeroporto, e poi torniamo con ANAS all'inizio del 2017, l'Agrigento Caltanissetta. Abbiamo bisogno del buonsenso dei sindaci, che quando si vede iniziare un'opera pubblica dobbiamo avere la stessa cura come governanti a livello centrale che hanno i sindaci, ed è per questo che nell'ultimo periodo si stanno susseguendo inaugurazioni. Non è semplicemente una casualità cronologica, è il fatto che finalmente si è deciso di smetterla con i rinvii, con i ritardi. Questo è il senso profondo dell'inaugurazione del quadrilatero oggi. L'idea che abbiamo già perso troppo tempo e che adesso vogliamo bruciare le tappe. Allora, un'agenzia appena battuta, il TAR della Lombardia ha respinto le richieste dell'autorità per l'energia, ha confermato quindi lo stop degli aumenti delle tariffe elettriche scattati lo scorso primo luglio, lo annuncia il Codacons, che aveva già fatto il primo ricorso. Dicevo che parleremo dopo invece dei dati sul sud, ma un altro passaggio dell'intervento di Renzi oggi vorrei farlo ascoltare, ed è quello sul, visto che c'è un Consiglio dei Ministri oggi, dovrebbe essere appena iniziato, era alle 17, che se abbiamo ben capito potrebbe avere come oggetto anche le opere pubbliche, lo sblocca cantieri. Renzi oggi ha detto che, rimettendo a posto l'Italia, diamo una chiara direzione di marcia all'Unione Europea, non è solo l'inaugurazione di una strada, l'Italia deve dire basta, chiudere con l'austerity, o meglio l'Europa, l'Italia deve dire all'Europa di chiudere con l'austerity e che bisogna investire più nelle infrastrutture. Tutti noi dobbiamo ricordarci che c'è bisogno di rimettere a posto e di aggiustare l'Europa, e lo facciamo esattamente dimostrando che l'Italia sistema il suo passato, chiude i conti con le cose rimaste a mezzo, perché se l'Italia chiude i conti con le cose rimaste a mezzo può andare in Europa e dire che bisogna investire di più sulle infrastrutture, che bisogna smetterla con questa cultura dell'austerity che ci ha fatto tagliare da 40 a 20 miliardi di euro gli investimenti pubblici Dal 2012-2013 siamo arrivati a 20 miliardi di euro, una follia economica, una follia culturale, una follia sociale, una follia politica. È stata una follia accettare quel principio. E vedremo poi se l'Europa, devo dire, l'indicazione arrivata ieri, l'abbiamo commentata da Spagna e Portogallo, è sicuramente di una Commissione europea che tiene conto della bassissima simpatia che c'è in questo momento verso le istituzioni europee e quindi, e come effetto anche della Brexit ulteriore, prende atto che forse sanzionare Spagna e Portogallo sarebbe stato controproducente. Vediamo cosa succederà nel caso dell'Italia. Io lo dico tranquillamente, perché lo diciamo da ben prima che Renzi facesse il Presidente del Consiglio, ma è chiaro che la follia è stata quella di andare solo verso l'austerità senza investimenti, investimenti europei per la competizione, non sprechi, ma investimenti. Per cui possiamo tranquillamente essere d'accordo con il Presidente del Consiglio, perché eravamo d'accordo con lui prima che lo facesse, nel senso, quando, ahimè, Monti e anche Letta non seppero, diciamo, insistere per essere buoni su un'Europa con un passo diverso. Allora, dicevamo del sud e ce ne occuperemo anche più avanti, anche perché oggi il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Claudio De Vincenti, partecipando alla presentazione dello Svimez, ha detto che il governo entro la pausa estiva allocherà oltre 11 miliardi per lo sviluppo del nostro mezzogiorno attraverso il CIPE, il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica. Abbiamo la prossima settimana una riunione della cabina di regia che ha il compito di dare coerenza sull'uso dei fondi di sviluppo e coesione dei fondi strutturali. Su questo si concentrano i 100 secondi di Radio 24, solo 24 ore, trasmessi anche su Radio Dimensione Suono, oggi a firma di Salvatore Padula. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore. Con Salvatore Padula. Oggi la Svimez, che è l'associazione per lo sviluppo dell'industria nel mezzogiorno, ha presentato il suo report annuale sull'andamento dell'economia nelle regioni meridionali. La buona notizia è che per il mezzogiorno, dopo 7 anni consecutivi di calo, il prodotto interno lordo è tornato a crescere. Anzi, ha mostrato nel 2015 un andamento dell'1% maggiore rispetto allo 0,7% registrato in media nelle regioni del centro-nord. È un dato importante. Sicuramente positivo, che però sarebbe un errore sopravvalutare, che dobbiamo invece prendere con le cautele necessarie. In primo luogo perché il PIL del Sud sarà certamente cresciuto nel 2015 a un ritmo più sostenuto rispetto al resto d'Italia, ma non possiamo ignorare che in valore assoluto il Mezzogiorno resta lontanissimo dai livelli delle regioni del centro-nord. Due numeri lo spiegano bene: il prodotto interno lordo pro capite al Sud è di 17.800 euro, al centro nord siamo a 31.600 euro, quasi il doppio. L'altro motivo che induce alla cautela è che i buoni risultati del 2015 sono dovuti, così dice la Svimez, a circostanze eccezionali legate al buon andamento del turismo, a un buon uso fatto dei fondi comunitari. Questi risultati non saranno replicati quest'anno, tanto che la crescita dovrebbe fermarsi allo 0,3% contro lo 0,9% del resto del paese. Sullo sfondo i nodi irrisolti della questione meridionale, con gli investimenti che non decollano e l'occupazione che, nonostante buoni risultati del 2015, non ha neppure recuperato i livelli pre-crisi. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Allora, ancora due notizie. Oddio. Ma guardate, no, dico ad alcuni ascoltatori, che io non ho nessun problema a dire quando non sono d'accordo con il Presidente del Consiglio e quando sono d'accordo. Anche perché, ripeto, ci fossimo allineati adesso al tema dell'austerity, di una Europa a trazione tedesca, folle nel diventare prociclica, quindi nel ridurre gli investimenti quando di investimenti c'è bisogno. Qualcuno mi scrive: ma se aumentano gli investimenti aumenta il debito. Ma guardate che il problema in questo momento di debito e deficit, come spieghiamo dal 2011, è che, essendo la cosa importante il rapporto tra deficit e PIL e tra debito e PIL, se tu non fai ripartire il PIL, il rapporto sarà sempre troppo alto, perché il denominatore, che è piccolo o addirittura delle volte si riduce anche, avessi un PIL in maggiore crescita, avresti un rapporto più basso tra debito o deficit e PIL. È che noi continuiamo a lavorare sul numeratore, cioè il debito e il deficit, taglia, non fa investimenti, e non lavoriamo mai sul denominatore, cioè fare crescere sto cavolo di PIL. Dopodiché qualcuno ritiene che si possa far crescere il PIL senza un massiccio intervento di investimenti pubblici, va bene, la storia ci dice che non è così, ma vediamo. Invece due notizie in breve, una che riecheggia molto quanto capitò al neo direttore della Reggia di Caserta. Vi ricordate, lo mettemmo nella nostra classifica quando i sindacati protestarono, sindacati che nella Reggia di Caserta hanno spesso e volentieri difeso i fancazzisti e diritti acquisiti ma inaccettabili. Ma dicevo, si protestarono perché il direttore della Reggia si tratteneva fino a tardi nel suo ufficio. Adesso è successa una cosa diversa, ma il sindaco di Caserta, che da poco è stato eletto, si chiama Carlo Marino, è stato eletto con una giunta civica, e il racconto l'ha fatto il consigliere regionale della Campania Francesco Emilio Borrelli dei Davvero Verdi. Praticamente lui era in riunione con il sindaco di Caserta, gli hanno spento la luce e hanno dovuto fare la riunione notturna a lume di candela, perché i custodi hanno staccato la luce. Lì non si capisce se non fossero stati informati o fosse un gesto, diciamo così, di sabotaggio vero e proprio. Fatto sta che sono andati avanti con la luce degli smartphone. E tra l'altro il lassismo, continua Borrelli, la mala gestione degli anni scorsi ha spinto molti dipendenti a pensare che non ci si possa trattenere fino a tardi negli uffici. Invece la buona notizia, prima del meteo, arriva di nuovo dal mondo del vino, dove praticamente più 3,8% l'andamento dei vini italiani a livello mondiale, anzi quasi 4%, e praticamente nei primi 5 mesi le importazioni nei primi 10 mercati, che pesano da solo per il 70%, sono cresciute del 4%, superando i 7 miliardi e 300 milioni di valore. Molto bene Stati Uniti e Giappone, mentre hanno arretrato Germania e Regno Unito. La Russia, dopo 2 anni di cali forti, ha visto crescere del 9% gli acquisti. La Cina, su cui noi contiamo pochissimo, però complessivamente ha importato in valore 1 miliardo di euro di vino nel 2015. C'è un problema: 900 milioni li fanno i francesi in Cina, 90 milioni li fanno le aziende italiane. 349-238-6666 per i vostri sms e whatsapp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, meteo, e poi cerchiamo di capire che cosa potrebbe capitare sia sul fronte bancario ma sul fronte complessivo, diciamo, di un'Europa post Brexit. Focus Economia. Just hope you ain't the money, money, money, money, money. Love me, honey. You got me singing Georgia. Allora, 17:34 minuti, intanto vi do la chiusura di borsa, -1,65% con la vicenda Saipem oggi a tenere banco, -9,38%, ripeto, molte nuove voci su Monte dei Paschi, però a questo punto aspettiamo domani. C'è anche la notizia che International Media Holding, insieme a Diego Della Valle e a Pirelli, ha presentato il ricorso al TAR del Lazio contro la decisione della Consob in merito alla mancata sospensione dell'OPAS promossa da Cairo Communication su Rizzoli Corriere della Sera. Della Valle ha detto: non mollo, non c'è niente di personale, quello che va chiarito è che la Consob è mancata pesantemente con un silenzio che ha favorito una parte. Io non mollo, e se mi dicono che l'operazione è corretta faccio un passo indietro, rimango secondo azionista. E questo per quello che riguarda la vicenda della Valle. Andiamo sui titoli di mercato. Leonardo, Finmeccanica più 2,70%, Telecom Italia più 0,30%, E appunto invece Saipem meno 9,80, Azimut meno 9,40, Fiat meno 8, Pop Milano meno 4,60, Fineco Bank meno 4, Unicredit meno 3,70, Exor meno 3,30, Unipol meno 3,1, come la Popolare Emilia Romagna, il 3% l'ha perso. Intesa San Paolo, Guido Maurino, Radio Cori, Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Allora Guido, siamo alla vigilia di questi ormai famosissimi stress test di cui tanto si è detto che non dovrebbero arrivare grosse sorprese, nel senso Monte dei Paschi non passerà, non li passerà, e poi invece da quello che abbiamo capito forse qualche problemuccio in Germania e per il resto Unicredit forse una sufficienza appena appena risicata. Vedremo domani, ma che è successo oggi a Saipem? Oggi Saipem ha risentito del fatto che ieri ha tagliato le stime per quello che riguarda il 2016, aveva diffuso i conti che hanno comunque mostrato un ritorno all'utile della società nella prima parte dell'anno, però questo taglio delle stime per quello che riguarda l'intero 2016 ha penalizzato le quotazioni, anche perché Saipem arriva da un periodo industrialmente molto complicato e anche il percorso per l'uscita dalla crisi è ormai avviato da tempo, continua a risentire del fatto che sia il flusso dei nuovi ordini sia le commesse esistenti stanno continuando a subire alcuni ritardi e questo spaventa un po' gli investitori. E questo sì, spaventa oggi insomma in maniera massiccia. Azimut, altro titolo, meno 9,40%, e se commentiamo oltre che Azimut anche Fiat Chrysler che oggi perde l'8%. Sì, tutti e due i titoli hanno pubblicato i conti sì. trimestrali fra ieri e oggi. Ho dovuto per Azimut, c'è anche la nomina del nuovo amministratore delegato che va a sostituire Giuliani che ha guidato la società negli ultimi anni. Il nuovo amministratore delegato Sergio Albarelli è un manager esperto nel risparmio gestito, però oggi i titoli hanno risentito soprattutto del fatto che i conti della prima parte dell'anno non siano stati positivi. Questo in qualche modo è anche normale nelle società di risparmio gestito, l'abbiamo già visto altre volte, perché la volatilità dei mercati unita ai tassi bassi va a erodere le commissioni di performance di queste società e quindi i titoli ne risentono poi per quello che riguarda l'utile netto che si è più che dimezzato nei primi sei mesi. Ancora Pop Milano, qui veniamo alle banche, meno 4,60, Fineco e Unicredit ancora Pioneer, il motivo? Sì, diciamo che continua l'incertezza su quello che farà Unicredit da grande. Ieri c'erano state queste indiscrezioni che erano circolate sul mercato che dopo la mancata cessione di Pioneer la società sarebbe stata costretta a un aumento di capitale da 5 miliardi piuttosto che a una cessione di quote di Fineco Bank o della controllata polacca Pekao. La società ieri è sembrata rassicurare, anzi ha fatto una dura presa di posizione in serata dicendo che si tratta di rumor che rischiano solo di destabilizzare il titolo e ha minacciato di rivolgersi a Consob, però le rassicurazioni non sono state così convincenti perché oggi vediamo lo stesso andamento di ieri per cui Unicredit ha ceduto il 3,72%, Fineco Bank il 4%, certo. Continua un po' l'incertezza sul titolo. Allora, ancora due titoli. Enel, che oggi ha diffuso i dati sul semestre, invariato a 1 miliardo e 800 milioni l'utile, i ricavi scendono del 9%, rivisti al rialzo comunque gli obiettivi sul 2016 dell'1,2%. Francesco Starace, che è l'amministratore delegato di Enel, ha detto di essere ottimista per il 2016, infatti hanno alzato gli obiettivi dei conti finali, via libera del consiglio di amministrazione dell'Enel all'acquisto di Metroweb e all'integrazione della stessa con Enel Open Fiber, il valore totale dell'operazione è pari a 814 milioni e con Metroweb accelera Enel sulla fibra, nel senso che raggiungerà nel periodo 2016-2021 la fibra ad altissima velocità circa 9 milioni e mezzo di case degli italiani, un investimento progressivo che passano a circa 3, con l'investimento di circa 3 miliardi e 700 milioni di euro contro i 2 miliardi e mezzo del piano precedente. Andiamo ancora su altri titoli. Moncler, qui non è che abbia perso tantissimo Moncler, però ci sono notizie sul titolo, ha perso il 2,13%. Sì, perché questa mattina sostanzialmente è stato annunciato un riassetto degli azionisti principali di Moncler. In sostanza arriva il fondo di Singapore Temasek insieme a un investitore, presidente di World di Dufree, la società di Duty Free Svizzera, che ha comprato negli anni scorsi World Duty Free dai Benetton, si chiama appunto Carlos Torres. Questi due nuovi soci entreranno ad affiancare l'attuale azionista Ruffini, l'azionista di riferimento, mentre uscirà Tamburi. Cosa succede? Che Tamburi il nostro mitico ospite Giovanni Tamburi, prego, otterrà il 5% delle 5,1% delle azioni Moncler e sostanzialmente ha annunciato che a partire da settembre inizierà a liquidare questa sua partecipazione. Questa è una notizia che, come sempre in questi casi, è negativa per le quotazioni azionarie del titolo, e questo spiega un po' l'andamento di oggi. Allora, andando e concludendo sui migliori e peggiori, Go Internet più 7%, Ambro Mobiliare più 6,5%, Banca Ifis più 4,40% e poi Caltagirone Editore più 4%. Anche qui c'è notizia, perché il colosso francese Suez intende aumentare la sua quota in Acea, portandola al 23%, è la municipalizzata multiutilizzo romana, chiaramente, dall'attuale 12,5%, acquistando azioni dal gruppo Caltagirone. Praticamente l'operazione, se ho ben capito Guido, verrà realizzata attraverso l'emissione di nuove azioni Suez pari a circa il 3,5% del capitale, quindi Caltagirone a sua volta diventerà socio stabile di Suez col 3,5%. Sì, sostanzialmente così, ci sarà un aumento di capitale riservato di Suez proprio per questa operazione. In qualche modo per l'imprenditore romano è un salto internazionale, un salto significativo e anche un cambiamento significativo per la municipalizzata romana, che vede crescere il socio francese all'interno del suo capitale. E infatti Caltagirone oggi guadagna il 4%, 0,82 centesimi di euro per azione. Migliore diciamo Go Internet, il peggiore Saipem e Azimut e Fiat, cioè i tre peggiori del listino principale, sono anche i tre peggiori in assoluto. Poi AF meno 5,80, Salini in pregilo meno 5,80%. Grazie a Guido Maurino, Radio Core, Il Sole 24 Ore. Allora, alcuni di noi si stanno già preparando all'estate, altri dovranno attendere, altri hanno già fatto le vacanze, ma quello che è chiaro è che, come sempre, il primo appuntamento, ormai da anni, anche di questo programma, dopo l'estate, quando riparte l'attività economica a tutto campo, quindi inizio settembre, è l'appuntamento dove noi saremo in diretta anche quest'anno, il venerdì, dal workshop Ambrosetti che si tiene a Villa d'Este a Cernobbio. Perché lo dico? Non per anticipare quello che faremo fra un mese e mezzo, perché il Club Ambrosetti è uscito nel frattempo con un rapporto sul effetti Brexit, tra l'altro un rapporto con segnali un po' più rassicuranti, e però altre minacce e altre tensioni, di cui immagino poi si parlerà anche a inizio settembre. E allora però ringrazio per averci raggiunto in collegamento Valerio De Molli, che è Managing Partner di The European House Ambrosetti. Buonasera De Molli. Buonasera dottor Barisoni, buonasera a tutti i radiospettatori. Allora, senta, voi, se ho ben capito, però ci aiuti a districare la matassa, dite che sul fronte del business vero e proprio l'effetto Brexit potrebbe essere meno drammatico di quanto alcuni hanno paventato. Però temete che le minacce maggiori arrivino da elementi di carattere ancora politico, disgregamento del progetto politico dell'Unione Europea e dell'area euro. Voi avete interrogato 350 imprenditori e investitori legati, se ho ben capito, no? Ma questi sono gli imprenditori e gli amministratori delegati, i membri della community del nostro club, che da ormai circa 4 anni è protagonista con noi di questo monitoraggio sul sentiment dell'economia italiana nel breve, le prospettive a 6 mesi e l'orientamento su occupazione e investimenti dei prossimi 6 mesi. Ed è un monitoraggio appunto che facciamo da più anni e di fatto questa rilevazione del primo semestre, quella che è la seconda dell'anno, quella che è stata anche oggetto di pubblicazione su Sole 24 Ore l'altro giorno, dà un'evidenza di una percezione di sostanziale stabilità, non nel senso che c'è euforia sugli investimenti o sull'occupazione, ma che c'è un moderato ottimismo e una stabilità con tutti gli indicatori comunque in territorio positivo. Non siamo sui massimi, nemmeno sul sentiment dell'economia italiana a breve, ma il pre-Brexit e il post-Brexit a livello di business community, io parlo, quindi a livello di classe dirigente, non ha dato la percezione di un'implicazione negativa sul piano dei grandi investitori, sul piano delle imprese. E del resto basta guardare anche gli spread, insomma, gli spread di fatto dopo la fiammata a caldissimo, perché nessuno si aspettava questo epilogo, per cui sono schizzati a 160, sono certo rientrati attorno a 140, e io ricordo che peraltro la dimensione del nostro spread è di fatto migliore ancora di quello che sembra, perché sembra rimasto stabile. In realtà è la Germania che è scesa ulteriormente e quindi oggi di fatto prestare i soldi alla Germania vuol dire pagare la Germania perché li prenda. Sì, e vale anche per alcune emissioni obbligazionarie italiane ormai. Comunque, dopo il traffico, De Moglio, io vorrei capire una cosa, perché non sfugge a nessuno, ne abbiamo detto anche prima, domani sera alle 22 arriveranno gli stress test, ne parliamo da ormai tutta la settimana e anche la settimana scorsa. Oggi nuove indiscrezioni, nuove analisi sul Times di Londra, che dice: attenzione, il rischio delle banche italiane potrebbe essere il rischio più grosso per l'Unione Europea. Dopo il traffico vorrei capire se anche i vostri intervistati ritengono che il fronte bancario e il fronte bancario italiano possa essere un elemento di vulnerabilità fortissima, e che giudizio viene dato complessivamente anche sul nostro paese. 349-238-6666 per sms e whatsapp, e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Focus Economia. minuti di nuovo in diretta. Allora, De Molli, le preoccupazioni, visto che già le anticipavamo, arrivano su, e quanto intense sono sul sistema bancario italiano, perché c'è chi dice: guardate che tutte queste tensioni le ha generate anche la Banca Centrale Europea con una lettera insomma, che è poi stata resa pubblica, con questa forte sottolineatura di stress test che prevedono scenari così negativi che lì il problema sarebbe come stanno in piedi i paesi, non come stanno in piedi le banche. E insomma, che c'è anche un atteggiamento un po' masochista da parte delle autorità europee nel farci male da soli. Comunque, cosa dicono i vostri intervistati? Anche su questo fronte noi ci sentiamo di sposare quanto anche Mustier ha dichiarato pubblicamente in un'intervista. Il nuovo numero uno di Unicredit, certo. Il nuovo amministratore delegato di Unicredit, ma lo stesso Carlo Messina in un incontro con il nostro club non troppo tempo fa. Insomma, c'è la serenità di attendere questi risultati nella consapevolezza che le più grandi banche del paese rappresentano oggi una situazione di maggiore solidità rispetto al passato. Come intero sistema paese siamo quelli in Europa che hanno meno preso denaro pubblico per salvare le banche, e questo occorre sempre ricordarlo, perché noi abbiamo preso non so quanto sia un merito e quanto sia un demerito, perché siamo stati anche poco furbi, mettiamola così, quando altri paesi, Spagna, Germania in primis, aiutavano massicciamente le loro banche con soldi pubblici. Ecco, però da una parte, se l'Italia fa qualcosa di fuori standard, di fuori dei canoni, i soliti italiani mafia e mandolino che fanno i furbetti del quartierino, tanto per fare rima. Se invece ci comportiamo in modo virtuoso, che somari, potevano farlo come gli altri, non l'hanno fatto. Fatto sta che noi abbiamo messo 4 miliardi di bond, i Monte dei Paschi di Siena, questa è la cifra di cui parliamo, con un vantaggio per lo Stato importantissimo sul piano del rendimento, altri hanno messo i trilioni di euro. Il nostro sistema, se lei lo guarda a livello di insieme, è un sistema che ha tante debolezze, nel senso che è caratterizzato da un'enorme frammentazione, di fatto le prime 10 banche rappresentano il 90% di quota di mercato, quindi stiamo parlando semmai di qualche coda di problematicità che è assolutamente gestibile con ordini di grandezza comunque contenuti. Quindi noi restiamo sereni al riguardo, saremo anche noi molto curiosi di vedere questi stress test. Non mi aspetto per le banche importanti problematiche significative o che possano scuotere i mercati. Ricordo anche che l'apparente crollo, diciamo, dell'indice complessivo del mercato italiano negli immediati 2 giorni successivi a Brexit è anche dovuto in parte a un sovrappeso del settore bancario, che ha subito questo shock anche per interpretazioni di questa azione della BCE, che anch'io condivido in pieno, dottor Barisoni, quanto lei ha detto, è stata quantomeno un po' infelice sul piano della comunicazione esterna. Ci sono aspetti che devi comunicare, altri su cui devi riflettere e ragionare direttamente con gli Ma poi voglio dire, tu puoi mandare tutte le lettere che vuoi, a parte il fatto che non si capisce, meglio dico, a me non frega nulla di difendere il Monte dei Paschi, non si capisce perché tu improvvisamente 10 miliardi in 3 anni, va bene, insomma, sappiamo tutti le sofferenze, però attenzione, perché anche le sofferenze bancarie, diciamo una volta per tutte, se io sono obbligato a venderle con la pistola alla tempia, le svendo. E perché è importante il Monte dei Paschi, lo dico a chi sta scrivendo, perché sulla base di quello che sarà il prezzo che il Monte dei Paschi fa, il prezzo a cui il Monte dei Paschi cederà questi crediti sul mercato, si dovranno allineare probabilmente tutte le altre banche. Quindi se il prezzo a cui li cedi è troppo basso, significa un danno non solo per il Monte dei Paschi, che dovrà rivedere tutto il bilancio e aumentare le svalutazioni, perché magari le aveva a 40 per ogni euro di sofferenza, riteneva di averle in bilancio, le ha in bilancio a 40 centesimi, se le svaluti a 20 centesimi è chiaro che a quel punto devi dimezzare tutto il valore delle sofferenze che hai in bilancio, ma soprattutto varrà anche per le altre banche, e quindi il rischio poi è a catena che si facciano gli stessi conti sulle altre sofferenze bancarie delle altre banche e si dica: bene, anche le altre banche ce l'hanno a 40 centesimi per ogni euro che hanno prestato, anche le altre banche dovranno andare a 20 centesimi, e lì parte il risico, il domino, la speculazione. Per questo dico attenzione a come le sofferenze vengono cedute, perché anche dire devi cedere 10 miliardi in 3 anni, sì, perché vediamo come, vediamo se ti conviene. Vediamo se ti conviene aspettare e recuperare qualcosa in più, se ti conviene coprirle o non coprirle. Comunque, mi dia il titolo finale. Quanto sono preoccupati i vostri interpellati dal sistema bancario italiano? Non lo sono, ma vorrei tornare, dottor Barisoni, sull'inizio della nostra conversazione sul tema Brexit, perché di nuovo vorrei spostare il paradigma da rischio, da crisi, da crollo a enorme opportunità proprio per il nostro paese, che era un po' anche la riflessione contenuta in quel lavoro di ricerca a cui lei ha fatto riferimento. Noi abbiamo almeno 2 grandi agenzie sovranazionali, una è l'EBA, che ha circa 200 persone molto qualificate, cioè la European Banking Authority, e l'altra è l'EMA, la European Medicine Agency, che ha 1 migliaio di scienziati occupati e che ha ricadute enormi indirette sul territorio. E allora è evidente che di fronte ad una Brexit politica queste 2 importanti agenzie non potranno più rimanere basate a Londra, e Francia e Germania hanno già attirato l'attirabile, mi lasci dire, e di conseguenza nessuno meglio di Milano da ogni punto di vista può essere attrezzato per essere attrattivo verso queste 2 realtà. Se per una volta riusciamo a fare sistema, governo di centrodestra a Regione Lombardia, governo di sinistra a centrosinistra a Roma, sindaco di sinistra a Milano, in una logica di supporto anche imprenditoriale importante con Assolombarda, con Confindustria, con il supporto, mm-hmm, se richiesto e utile, di The European House Ambrosetti, forse riusciamo davvero a giocarci la nostra partita e a spostare verso l'Italia elementi importanti di creazione di valore di lungo termine. Come possono, beh, c'è anche l'area Expo, che mi sembra di capire, bravo, stia ancora, bravo, attendendo una destinazione d'uso, come si direbbe in gergo commerciale. E se non ricordo male, la prima missione fuori di Sala, del neo sindaco Sala, fu proprio per questo motivo. Però lei ha ragione in una cosa, e cioè lì ci vuole un'operazione di sistema, come fu per l'Expo. Ricordiamoci bene come si lavorò per l'Expo, per aggiudicarsi l'Expo. Anche in questo caso, governo centrale, regione Lombardia, e perché poi l'area riguarda anche quello, e poi comune di Milano. Grazie a Valerio De Molli e buona serata anche a lei. Andiamo sul GR24 e poi commentiamo invece da un lato il rapporto COP sui consumi, dall'altro anche il rapporto Svimez sul nostro Mezzogiorno. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Dalla Brexit all'immigrazione, dall'Europa alla Cina, dall'Iraq a Molenbeek, tutti i temi più caldi dell'estate in un'ora di grande attualità internazionale. E poi le analisi e i racconti dei grandi eventi del nostro tempo. Risorse e materie prime, ambiente, cultura, letteratura, religione, al di là degli stereotipi e senza censure. Voi andate pure in vacanza, il mondo ve lo raccontiamo noi. Sono Giampaolo Musumeci. Anche quest'anno, zaino in spalla, ho viaggiato e indagato storie e fenomeni. Ora riaccendo il microfono per raccontarveli. Se anche voi pensate che nessun luogo è lontano, vi aspetto dal 1 agosto, tutti i giorni alle 16, qui su Radio 24. Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisone. Adesso parliamo appunto del rapporto Svimez e poi dei consumi degli italiani. Devo dare una risposta e un aggiornamento. La risposta è un ascoltatore che, in tema di investimenti pubblici, ma noi abbiamo una spesa pubblica che è poco sopra il 50% del PIL, ci dica quanto dovrebbe essere, 60-70%, altrimenti è solo un buffone pagato dalle clientele politiche italiane per fare polemiche inutili. No, guardi, il suo giudizio lo rispetto, ci mancherebbe, su di me, ma la spesa pubblica italiana, che è poco sopra il 50% del PIL, in realtà è, per la stragrande maggioranza, qui bisogna anche stare attenti però, è una spesa non comprimibile, perché su 800 miliardi di spesa pubblica, praticamente siamo al 51% del PIL, 801 miliardi, le prestazioni sociali, pensioni, sono 311 miliardi, gli stipendi dei dipendenti pubblici sono 165 miliardi, poi paghiamo quest'anno meno, ma abbiamo pagato fino a 85 miliardi di interessi sul debito, altre spese correnti 47 miliardi. La spesa per beni intermedi, quella che andrebbe rivista, non solo tagliata ma migliorata, resa più efficiente dalla spending review, sono 132 miliardi. Qui non si sta parlando di cifre del genere, si sta parlando di cifre molto più basse, ma di investimenti pubblici non che decidiamo, non che gestiamo noi con rischio. Fate gli eurobond, le proposte sono ormai sul tavolo da anni, emissioni obbligazionarie di carattere europeo per finanziare progetti di investimenti europei, i corridoi, le infrastrutture digitali, oltre che le infrastrutture, diciamo, di rete e fisiche. Di questo stiamo parlando. E poi ci può essere, non stiamo parlando solo di grandi opere. Più volte abbiamo ricordato il valore che hanno le piccole opere dell'edilizia, a partire dai progetti sull'edilizia scolastica, nel far circolare denaro, diciamo, in maniera un po' grezza, e quindi avere un effetto moltiplicatore poi sul territorio. Per cui non stiamo parlando solo né di opere faraoniche né di opere inutili, ma ci mancherebbe. Però attenzione, e guardi che la spesa pubblica italiana non è l'apporto della pubblica amministrazione, non è la cifra complessiva del problema del paese, è l'efficienza di questa spesa. Comunque adesso ne parleremo, anche perché parliamo del Mezzogiorno. Invece c'è una notizia appena battuta dalle agenzie, riguarda la semestrale di Mediaset. Nei primi 6 mesi dell'anno Mediaset ha registrato una perdita di 27 milioni e 800 mila euro, contro invece un utile di 24 milioni nei primi 6 mesi del 2015. La pubblicità è cresciuta del 3,7%, Nel secondo trimestre, dice Mediaset, sono stati sostenuti esborsi di cassa una tantum derivanti unicamente dalla firma del contratto con Vivendi, pari a 34 milioni. Quello che Vivendi adesso ha interrotto, ha voluto far saltare. E infatti Mediaset sottolinea che i ricavi sono comunque in aumento, 1 miliardo 870 milioni contro 1 miliardo 720 milioni dell'anno prima, quindi sono circa 150 milioni in più. Soprattutto sulla vicenda Vivendi, sapete, ne abbiamo raccontata, i francesi, dopo aver firmato l'8 aprile l'accordo per rilevare Mediaset Premium, hanno tre giorni fa a sorpresa sospeso l'accordo, rotto l'accordo, e il consiglio di amministrazione di Mediaset ha respinto la nuova proposta di Vivendi e ha dato mandato agli amministratori di adottare tutte le opportune azioni finalizzate a ottenere l'adempimento del contratto da parte di Vivendi e, in caso di inerzia di quest'ultima, di agire in sede civile ed eventualmente anche penale a tutela degli interessi di Mediaset. Rapporto Svimez. Ogni anno lo Svimez ci illustra, fotografa l'andamento del nostro mezzogiorno. Dopo 7 anni di continue flessioni del PIL nel 2015, quindi l'anno scorso, il nostro sud ha registrato una crescita del PIL anche superiore a quella del centro-nord, l'1% contro lo 0,7%. Il PIL pro capite è cresciuto al sud dell'1,1% contro lo 0,6% del resto del paese. E quest'anno, se ho ben capito, invece vi sarà un rallentamento, nel senso che se il nord, il centro nord farà più 0,9%, il sud farà più 0,3%. Gli elementi che hanno portato a questa crescita sono stati l'agricoltura, il valore aggiunto è cresciuto del 7,3%, e il boom del turismo, per cui, nonostante la polemica che abbiamo fatto qualche giorno fa, c'è stata una capacità di intercettare parte del flusso, a nostro avviso non ancora sufficiente, del flusso dei turisti che non vanno, per via delle crisi geopolitiche, più nel Nord Africa, in Turchia, in Egitto e quant'altro. E ancora un incremento delle esportazioni verso il resto del mondo del 4%. Professor Gianfranco Viesti, che insegna all'Università di Bari ed è direttore dell'Istituto di Ricerca e Sviluppo Mezzogiorno, buonasera. Buonasera. Viesti, lei che da sempre, insomma, è anche critico sulle politiche adottate verso il nostro sud, insomma, i dati del 2015 sono buoni. Uno potrebbe dire nel 2016, vabbè, c'è stato un rallentamento, ma non è, diciamo, un rallentamento che colpisce solo il sud. Ho visto anche i dati sugli occupati, 94.000 nuovi posti di lavoro al sud l'anno scorso, boom appunto soprattutto in agricoltura e nel turismo, anche se rispetto al livello pre-crisi, cioè pre-2008, ci sono ancora quasi 500.000 di occupati in meno, 482.000, mentre il resto del paese, in alcune aree soprattutto, è tornato ai livelli pre-crisi. Gli elementi più positivi, ma soprattutto anche gli elementi che hanno portato nel 2016 a questo rallentamento. Allora, il 2015 è stato buono, indubbiamente, un po' in tutte le componenti, perché Svimez ci dice una cosa che non ci diceva l'Istat, cioè che anche il manifatturiero è andato bene, lo vedevamo già dalle esportazioni, adesso abbiamo anche i dati sul valore aggiunto. Al sud c'è industria competitiva, beh sì, fra tutti, ma poi tante imprese locali. Poi va bene il turismo, molto bene, sono diversi anni che va bene, soprattutto la componente internazionale, molto legata alle reti di voli low cost che consentono ai turisti di arrivare nel mezzogiorno e che sono state attivate. Discreto anche questo dato dell'agricoltura, ma l'agricoltura rimbalza molto. Che è successo l'anno scorso di particolare? Che si è chiuso il ciclo dei fondi europei e quindi tante polemiche sui ritardi, sulla qualità, alla fine c'è stata una forte spesa e questo ha dato un impulso proprio agli investimenti pubblici di cui lei parlava prima. Hanno avuto un buon incremento. Dov'è il lato scuro della medaglia? È dato dal fatto che c'è stato praticamente solo il ricorso ai fondi europei, mentre la componente nazionale di queste politiche è ai minimi storici. Questo famoso fondo sviluppo e coesione, per dare un'idea, prima della crisi eravamo intorno ai 6 miliardi di spesa all'anno, fino al 2013 intorno ai 3 miliardi di spesa all'anno, l'ultimo biennio 1 miliardo. Quindi la preoccupazione qual è? Che col 2016, un po' il clima internazionale, un po' l'esaurimento di questa spinta degli investimenti pubblici, si possa avere un rallentamento. Anche i dati sull'occupazione che lei citava, la storia è molto interessante, perché dal fine 2011 al sud c'è un tracollo, un vero e proprio tracollo che non c'è nel resto del paese, sul quale bisogna ben interrogarsi. 2015, prima parte, un fortissimo recupero, che si rispecchia nei dati annui che lei citava. Poi purtroppo dall'autunno e ancora questa primavera un andamento un po' più spento, un po' più spento. Quindi portiamoci a casa questo buon risultato, ma non è un inizio di una ripresa che si va consolidando. Lei citava gli investimenti pubblici, cioè, se ho ben capito, l'anno scorso c'è stato un colpo di coda perché scadevano gli investimenti, i fondi europei, e quindi c'è stato un utilizzo di questi sui fondi pubblici, però quest'anno, dove non vi sarà questo colpo di coda, lei dice se mancano i fondi, anche gli investimenti pubblici, si rischia un rallentamento. Il vice ministro De Vincenti, commentando i dati dello Svimez, ha detto entro la pausa estiva il governo alloccherà oltre 11 miliardi per lo sviluppo del Mezzogiorno tramite il CIPE. Sappiamo che però il problema è quando poi lo sblocco dei fondi CIPE, perché 11 miliardi sono una cifra obiettivamente importante. Quali sono, visto che lei studia da anni i problemi di arretratezza e di limite del nostro sud, dove dovrebbero essere indirizzati questi soldi? Perché lei sa che quando si parla di soldi al sud, oggettivamente il tema è molto scivoloso e la polemica è dietro l'angolo. Verranno utilizzati, verranno sprecati? Prego, Viesti. Le grandi infrastrutture da capo, quelle di cui parlava lei prima rispondendo all'ascoltatore, le grandi reti, le ferrovie, qualche elemento ancora di qua, della banda larga, interventi nelle città, trasporto pubblico locale, le scuole, diciamo la gamma degli investimenti pubblici minori. E lo stanziamento CIPE bene, perché i patti per il sud non funzionavano, non funzioneranno perché non ci sono le delibere CIPE. Un po' in ritardo il governo, perché questi sono fondi 2014-2020, siamo a metà del 2016, quindi abbiamo accumulato già 2 anni e mezzo di ritardo. In quei famosi patti ci sono tanti interventi, ma sono prevalentemente dal 2018 in poi, quindi pungoliamolo un po' questo governo. Bene quando fa alcune cose, ma diciamo un'accelerata è molto importante, proprio per l'effetto che dicevamo prima, cioè che nel 2016 si rischia un rallentamento rispetto all'anno scorso. Allora, sul tema dei consumi adesso sentirò invece anche il rapporto della COP. Grazie intanto a Gianfranco Viesti, appunto, che insegna all'Università di Bari ed è direttore dell'Istituto di Ricerca e Sviluppo del Mezzogiorno. Andiamo sul traffico. Focus Economia. Sì, affrontiamo i consumi perché come ogni anno c'è il rapporto COP che sarà diffuso in realtà il prossimo settembre, ma c'è già stato il barometro COP e quindi l'osservazione trimestrale di monitoraggio di come vanno dal punto di vista delle COP i consumi degli italiani. Fotografia scattata a giugno, dove però io ho difficoltà e quindi giro subito le mie difficoltà ad Albino Russo, che è direttore dell'Associazione Nazionale Cooperativi di Consumo e responsabile del Centro Ricerche Italiane della COP. Buonasera Russo. Buon pomeriggio. C'è una difficoltà a dare un titolo, mi spiego. Allora, voi dite da un lato il sondaggio l'avete effettuato fino al 25 maggio, da un lato ci sono segnali di movimento, per cui il doppio delle famiglie rispetto all'ultimo semestre 2015 ritiene che le condizioni economiche siano migliorate, dal 3% al 6%. Diminuiscono anche quelli che ritengono che la loro situazione economica in casa sia peggiorata, dal 31 al 27%, anche certo, se è ancora una famiglia su 5 quella che ritiene di stare peggio rispetto ai 6 mesi precedenti. Però poi i ceti medi vedono un futuro meno grigio, i ceti bassi accentuano il pessimismo ed è accresciuta la percentuale nelle famiglie a reddito basso di chi ha paura di non riuscire a far fronte alle prossime spese. Il nord cerca di trascinare il resto del paese, una ripresa dei consumi a marzo 2016, ma voi stessi dite dov'è la ripresa. Ma insomma, che fotografia è? Beh, innanzitutto diciamo che le medie nazionali in questo paese sono sempre più delle convenzioni statistiche. Il paese è è ormai un mosaico, forse un patchwork di situazioni differenti che è difficile ricondurre a sintesi. La sintesi possibile potrebbe essere un apparente ossimoro. Facciamo nel 2016 probabilmente uno dei migliori risultati dell'ultimo decennio in termini di incremento del PIL, in termini di incremento dei consumi, ma anche del PIL, ma contemporaneamente il livello dei consumi è appena sopra lo zero, sopra l'uno. Stiamo parlando in realtà di un'economia che esce dalla fase più dura della recessione, ma che ancora non può dire di essere veramente in ripresa. Siamo l'economia dello zero virgola. I consumi fanno meglio degli investimenti, le famiglie investono con più oculatezza di quanto forse non facciano le imprese, ma stiamo parlando di un'economia sostanzialmente ferma. Allora, da questo punto di vista voi analizzate anche come cambiano i consumi, perché in una torta ferma, lei l'ha spiegato bene, però cambiano anche le intenzioni d'acquisto e dove si acquista. Allora, dove spendono gli italiani innanzitutto, cioè in quali settori e in che luoghi fisici? Gli italiani hanno interpretato questo piccolo cambiamento positivo dell'economia nazionale facendo quelle cose che avevano accantonato da qualche anno. Hanno innanzitutto comprato l'auto, poi hanno fatto, e questo l'abbiamo visto sui dati di matricolazione in maniera molto chiara, già da un anno stanno comprando l'auto. In realtà l'auto più venduta in Italia è la Panda, quindi facciamo degli investimenti molto oculati. Dichiarano di voler andare in vacanza. All'inizio dell'anno il 42% degli italiani dichiarava che avrebbe speso i redditi addizionali per andare in vacanza. In realtà il terribile impatto della geopolitica probabilmente sta riorientando queste scelte. Poi hanno voglia di divertirsi un po', quindi un po' di cinema, un po' di tempo libero in più. Badano al loro benessere, quindi hanno attenzione a quello che mangiano, vogliono andare in palestra o a fare un corso di yoga. Negli ultimi mesi chi ha soprattutto la fascia medio-alta della popolazione sta pensando di comprare casa. Non è un caso che nei primi mesi dell'anno le compravendite salgono di circa il 20%, non ancora i prezzi. E questo è certamente uno degli elementi che poi condiziona di più il resto delle spese, perché storicamente quando gli italiani cambiano l'auto o comprano la casa nuova tendono a risparmiare su altri versanti, esempio il carrello della spesa. E quindi insomma mi sembra di capire che vi siano da un lato alcuni consumi durevoli, penso all'automobile, di beni durevoli che erano stati soppressi prima, esatto. E dall'altro appunto anche alcune forme di intrattenimento, chiamiamole così in senso lato, che erano facilmente comprimibili anche queste prima. I luoghi della spesa? Beh, sicuramente l'unica cosa che cresce ampiamente a due cifre, ma diremo da alcuni anni, attorno al 20% è il non luogo, gli acquisti virtuali. Cioè l'online. L'online cresce oramai stabilmente del 20% in aggregato, sul comparto dei beni cresce anche di più e diciamo i prodotti che solo più di recente hanno trovato una loro proposta virtuale, tra virgolette, crescono anche nell'ordine del 30-35%. Quindi il commercio online è sicuramente la componente più dinamica, che assorbe almeno una metà dell'incremento dei consumi, ma naturalmente non, in termini assoluti non è il canale più significativo. L'altro trend caratterizzante questi ultimi anni è certamente i luoghi della specializzazione. Un paese che si ritrova dopo la lunga recessione, diverso da come era prima, ma anche molto polarizzato e frammentato, dove l'individualità è sempre di più un valore, ciascuno vuole comprare delle cose diverse e si rivolge a punti vendita diversi. facciamo un esempio connesso col cibo, crescono del 20% all'anno gli acquisti di biologico, crescono nella rete dei supermercati e degli ipermercati, ma crescono anche nei punti vendita specializzati, e questo è vero per molte altre categorie. La specializzazione è una delle caratteristiche di quella che potremmo chiamare una società veramente che diventa sempre più liquida e vuole comprare consumi liquidi. Senta, l'ultima domanda, una prospettiva, adesso è ancora presto, ma sul 2017 avete già una previsione sull'andamento dei consumi? Purtroppo il 2017, se le cose non cambiano, potrebbe andare meno bene del bene. 2016. Oh, perché chiudiamo in bellezza, dai. Prego. Il 2016, come anche in parte il 2015, si era avvantaggiato di una serie di condizioni esterne, straordinarie. Certamente la deflazione, la bestia nera dei produttori, è comunque invece positiva per i consumatori. Il petrolio, la deflazione, anche una diversa intonazione della politica economica pubblica, per quanto era possibile, hanno permesso non tanto un incremento dei redditi delle famiglie in termini nominali, quanto una diminuzione dei prezzi. Le famiglie hanno approfittato di questo maggior valore della loro busta paga, appunto per cambiare la macchina, per mettere un po' di soldi da parte, per immaginare di comprare casa. Chi ce l'ha fatta? Ora è chiaro che questo fenomeno non può durare, il prezzo del petrolio a 50 euro non andrà a 30, forse salirà, e quindi senza una nuova spinta all'economia del paese I consumi lì resteranno, diciamo, dai. I consumi resteranno. Quindi la variazione anno su anno sarà, se non cambierà qualcosa, mancando questo scalino a cui lei faceva riferimento, sarà più bassa. Grazie al responsabile del Centro di Ricerca Italiani Coope, appunto direttore dell'Associazione Nazionale Cooperative di Consumo, Albino Russo. È veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Noi ci risentiamo domani dalle 17 con l'ultimo appuntamento con la poco invidiabile classifica, poi tornerà a settembre, ma ad agosto il programma, come sempre, dura un'ora sola, e quindi sospenderemo anche la poco invidiabile classifica sugli sprechi della pubblica amministrazione. Intanto, da Sebastiano Barisoni, l'auguro di una buona serata. Radio 24, la passione si sente.